rompere il ghiaccio, ma lo faccio volentieri, e iniziando col dire una cosa, iniziando intanto col ringraziare la Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta per averci offerto la possibilità di presentare al pubblico questa piccola, ma almeno per noi significativa opera. E la seconda cosa che devo dire subito è che la vera anima di questo libro è la dottoressa Tauber, che è qui stasera, e che ha seguito la produzione di questo opuscolo fin dall'inizio, e sobbarcandosi una fatica fondamentale, che è quella di raccogliere le informazioni contenute in grigie, barbose, ma ahimè necessarie pubblicazioni scientifiche, per trasformare queste informazioni in uno strumento che può essere letto e goduto a tutti i livelli, voglio dire non soltanto a livello scientifico, ma proprio anche a livello didattico e divulgativo. Questo volumetto è un'opera divulgativa ed è espressamente indirizzato a tutti coloro che hanno curiosità e interesse per la materia senza essere degli specialisti. Bisogna dire che il sito di Velturno, di cui parlerò più diffusamente in seguito, è forse tra i siti archeologici preistorici dell'Alto Adige è meglio studiati e meglio conosciuti. Io stesso mi picco di essere il maggiore specialista mondiale di Velturno, che naturalmente è uno scherzo, insomma, e oltretutto non è una grande fatica, perché insomma il sito è piccolissimo ed è una realtà, diciamo, in sé molto piccola, ma dico questa cosa soltanto per sottolineare che intorno a questo sito è stato fatto molto dal punto di vista scientifico, e sono state fatte molte campagne di scavo a partire dagli anni 80, a partire dal 1983, e campagne di scavo che sono proseguite di fatto fino quasi a pochi giorni prima della conclusione dell'Archeopark, cioè di questa struttura che rende visibile al pubblico, che rende fruibile da parte del pubblico il sito archeologico. E, contrariamente però ad altri siti che gioco forza rimangono non valorizzati, non pubblicati, non per mancanza di interesse, ma spesso solo e banalmente per mancanza di tempo e di risorse umane, e il sito di Velturno ha avuto una fortuna tutta diversa, e soprattutto per le evidenze della Tarda e Tarda Rame, cioè per questo luogo di culto della seconda metà del terzo millennio avanti Cristo, sito che è sicuramente tra le più importanti evidenze dell'età del rame, almeno nell'arco alpino, e soprattutto per l'orizzonte, soprattutto per le evidenze dell'età del rame, il sito di Velturno si è imposto prestissimo all'attenzione della comunità degli studiosi, non solo in Italia ma anche all'estero. E naturalmente questo ha significato, in primo luogo per il mio capo, il dottor Del Ri, e pian pianino anche per me, ha significato da subito la necessità di rendere disponibili presto e per quanto possibile bene i risultati degli scavi. E non solo però il risultato di quello che andavamo scoprendo attraverso gli scavi archeologici, ma anche i risultati di quella grande, per lo più silenziosa, opera di studio e di valorizzazione dei reperti e delle risultanze degli scavi, che fanno poi la maggior parte del lavoro di tavolino, diciamo così, del lavoro di laboratorio. Quindi Velturno, con speciale riferimento al sito, al luogo di culto dell'età del rame, e Velturno è sicuramente tra i siti meglio studiati. Noi abbiamo, con riferimento a questo sito, con riferimento all'orizzonte dell'età del rame, una importante messe di reperti archeologici di tutti i tipi, ceramiche, oggetti in pietra lavorata, in selce, in pietra diversa dalla selce. Abbiamo una importante raccolta di scorie, di minuscole scorie di fusione che documentano attività minerarie e metallurgiche, di metallurgia del rame, nella seconda metà appunto del terzo millennio avanti Cristo. E poi abbiamo questa notevole messe di reperti è un dato abbastanza inedito, se vogliamo, soprattutto per i luoghi di culto. I luoghi di culto, gli altri luoghi di culto che noi conosciamo in area alpina o anche al di fuori dell'area alpina, si caratterizzano per essere molto poveri di reperti, cioè di oggetti materiali. Magari si compongono di strutture, magari anche monumentali, di appunto quelle che noi con termine archeologico chiamiamo strutture di pietre, fosse o massicciate di pietre e così via, ma dal punto di vista dei reperti questi siti sono normalmente molto poveri. E Belturno invece è insolitamente ricco di reperti. Questo naturalmente facilita il nostro lavoro dal punto di vista dell'inquadramento culturale, dal punto di vista dell'inquadramento cronologico e funzionale del sito. Poi Belturno ha anche una importante serie di datazioni radiometriche, cioè di datazioni ottenute con il metodo del carbonio 14. Come sapete, il metodo del carbonio 14 si applica allo studio di materia organica, quindi legno, negli scavi archeologici soprattutto carbone di legno. E è stato possibile, con riferimento a Belturno, effettuare finora 7 misure radiometriche che collocano il sito in un arco temporale piuttosto ristretto, compreso tra la metà del terzo millennio avanti Cristo, quindi circa tra il 2500 e il 2250 avanti Cristo. Per mezzo di elaborazioni statistiche, matematiche, che io non saprei riassumervi qui perché non è esattamente il mio lavoro, l'arco temporale dell'occupazione del sito può essere ulteriormente ristretto. Per cui sicuramente si può supporre che l'area di culto dell'età del rame di Belturno sia durata abbastanza a lungo, ma non parliamo di molti secoli, ma di alcune generazioni. Quindi l'idea che noi abbiamo è che questa grande installazione di culto, che era composta di tumuli, di pietrame, di piattaforme, anch'esse di pietrame, in cui si svolgevano riti funebri, sostanzialmente riti funebri, riti di venerazione dei defunti, sia durata abbastanza a lungo, ma non per secoli e secoli, probabilmente nell'arco di 100 o 150 anni, almeno per ciò che noi ne sappiamo allo stato attuale dello studio di queste datazioni radiometriche, il sito era stato costruito e abbandonato. Si tratta di un'area estremamente vasta. L'area attualmente musealizzata sono circa 300 metri quadrati, ma in realtà l'area originariamente occupata dal luogo di culto era sicuramente molto più grande. È difficile valutare quanto più grande, ma all'interno dello scavo che noi abbiamo musealizzato abbiamo visto che gli strati archeologici continuavano in tutte le direzioni, cioè continuavano anche al di là dei limiti imposti dalla nostra superficie di scavo. E piccoli sondaggi o veri e propri scavi di proporzioni minori, condotti anche in altri punti, dimostrano che quegli strati archeologici dell'età del rame che noi troviamo nel luogo di culto musealizzato si trovano anche in altri punti abbastanza lontani dal luogo della musealizzazione. Per cui l'idea che noi abbiamo è che questa struttura, questa grande installazione di culto, avesse anche un'estensione areale molto molto importante. Noi crediamo che questi tumuli, queste massicciate, queste stesure di pietre e tutto ciò che determina e che giustifica il titolo del volumetto, cioè un regno di pietre, avesse effettivamente una grande estensione, e che le singole strutture che la compongono siano cresciute un po' alla volta le une accanto alle altre. Cioè non dobbiamo probabilmente figurarsi il caso di un sito che cresce improvvisamente su una grande estensione, ma un sito che un po' alla volta, ma abbastanza rapidamente a quanto pare, si ramifica, diciamo così, si distribuisce sul terreno con un importante significato anche, noi diciamo, di marker territoriale. Cioè il sito funebre di Belturno sicuramente era qualcosa di visibile anche da lontano, era un'area sacra che in qualche modo doveva marcare il territorio e indicare il possesso del territorio da parte di una comunità che vi si era stabilita. Quindi, come vedete, soprattutto sulla base di quest'ultima osservazione che ho fatto, il sito di Belturno non è un sito che si presti solamente a speculazioni sul sito in sé, cioè non è un sito chiuso in se stesso, ma ci spinge a riflessioni anche sul suo significato rispetto al territorio di pertinenza, no? E da questo punto di vista io credo che l'area di culto funebre di Belturno Tanzgasse fosse per l'appunto quello che dicevo, cioè il segno di una presa di possesso del territorio e di una qualche cosa che doveva sottolineare la presenza e il possesso da parte di una comunità. L'aspetto forse più rilevante, cioè non l'aspetto più rilevante, ma sicuramente uno degli aspetti più vistosi del sito, è rappresentato dalla scoperta di almeno una statua stele figurata, menhir figurato, come si dice. Si tratta di una lastra di pietra, di cui una copia è esposta nell'area dell'antiquarium, dell'archeopark. E questa statua stele rappresenta un pugnale nel suo fodero, un'ascia e probabilmente un arco con una freccia. Tuttavia sappiamo che questa statua stele non doveva essere l'unica presente nel sito, cioè questa manifestazione d'arte preistorica, chiamiamola così, non doveva essere l'unica presente nel sito, perché uno dei tumuli in cui sono state effettivamente trovate le ossa bruciate di individui morti nell'età del rame, uno di questi tumuli, l'estremità di uno di questi tumuli era costituita da una serie di lastre messe di taglio nel terreno, per cui si suppone che queste lastre fossero in origine delle statue stele, forse anch'esse figurate, cioè con rappresentazioni, o forse delle statue stele non figurate, cioè quelle che con termine archeologico si definiscono statue stele aniconiche, cioè prive di iconografia. E vi interesserà sapere, questa è una piccola curiosità, però è diventata poi elemento espositivo, che una statua stele non figurata è stata trovata durante i lavori per la realizzazione dell'archeopark. Cioè ad un certo punto l'archeopark, che è questa struttura che copre, che protegge i resti archeologici, prevedeva la costruzione dei muri perimetrali, e in un punto già distrutto prima dei nostri scavi abbiamo fatto fare la trincea per mettere, per posare, per gettare il cemento per il muro di sostegno della struttura, e nello scavare la trincea è emersa una grossa lastra di granito sicuramente lavorata, sbozzata in modo da dare un po' l'idea della figura umana, che non è una statua stele figurata, non ha alcuna figurazione, ma intanto è lavorata, è una lastra e la forma che prende è quella di una, appunto, di una statua stele. Per cui in questo sito dovevano esistere sia statue stele figurate, sia statue stele non figurate che componevano l'assetto monumentale di quest'area. Perché quello che possiamo dire con relativa certezza è che, sia pure entro i limiti di una cultura certamente non estremamente progredita, non stiamo parlando di Stonehenge, no? Però a Belturno si è manifestato qualche cosa, cioè un aspetto del megalitismo, che ripeto non è Stonehenge, ma è un aspetto del megalitismo che consisteva nell'utilizzare pietre e nel mettere in piedi delle pietre che sicuramente non hanno quella monumentalità che noi troviamo per esempio nei più antichi e in parte contemporanei monumenti dell'Europa occidentale. Mi riferisco alla Francia nord-occidentale o all'Inghilterra meridionale e così via. Ma se rapportate, se queste strutture di pietrame, se le rapportiamo a comunità che comunque per il resto usavano solo il legno anche per costruirsi le case, capiamo evidentemente che c'era uno sforzo di creare qualche cosa di destinato a rimanere nel tempo, a conservarsi nel tempo. Quindi il megalitismo di Belturno è questo, non è la monumentalità di Stonehenge, ripeto, ma è la monumentalità di una cultura che produce aspetti monumentali come qualche cosa di eccezionale rispetto all'uso quotidiano. Ripeto, questa gente costruiva capanne di legno, fondava, per quello che ne sappiamo, insediamenti che in genere erano di durata brevissima, per cui questa gente ha sentito il bisogno di creare qualche cosa che teoricamente sopravvivesse, che potesse durare nel tempo, qualche cosa di costruito con la pietra che non perisse immediatamente. E tutto sommato hanno vinto loro, perché noi queste cose le abbiamo trovate e le abbiamo scavate, no? Quindi effettivamente queste cose si sono conservate, anche perché c'è un'ulteriore caratteristica del sito che bisogna mettere in evidenza, che è la lunga durata dell'occupazione, no? E io vorrei a questo proposito, siccome prima un po' pomposamente ho affermato davanti a tutti di essere il maggiore specialista mondiale di Belturno, mi devo correggere e dire che sono il maggiore specialista mondiale di quei due o tre strati dell'età del rame di Belturno, insomma mi sembra più corretto dire così. Invece, lasciatemi uscire dallo scherzo, invece io vorrei chiedere al dottor Dalry, che ha condotto gli scavi nel sito fin dall'inizio, di mettere in evidenza la lunga continuità d'uso che caratterizza l'area, perché quando diciamo che l'orizzonte dell'età del rame si è conservato, bisogna dire che questo è stato possibile perché al di sopra di queste strutture, in parte anche rovinandole, si sono insediati gli uomini della fine dell'età del bronzo, per cui da quel momento l'area di culto è stata coperta da strati archeologici che arrivano in pratica quasi fino ai nostri giorni e che hanno permesso a queste importanti evidenze di conservarsi, no? Lorenzo, vuoi fare due parole sull'aspetto della continuità di vita nel sito? Sì, ci sono degli strati sicuramente più antichi rispetto al santuario dell'età del rame neolitico, bocca quadrata, scavato in alcuni settori più esposti ancora negli anni Ottanta, mentre è da, ecco, forse una cosa che Tecchiati voleva dire in seguito è che all'interno di questa zona musealizzata ci sono delle strutture dell'età del rame che però non sono scavate interamente. Ci auguriamo di poter negli anni prossimi andare più in profondità, ed è molto probabile che al di sotto si trovino anche in questo punto strati appartenenti al Neolitico più antichi che in aree marginali abbiamo già trovato appunto negli anni Ottanta. E poi c'è questo salto di secoli intorno all'undicesimo, decimo millennio avanti Cristo, c'è una ripresa di presenza umana con delle capanne, delle strutture del bronzo finale, seguono capanne e strutture dell'età del ferro, seguono dei resti di epoca tardo-romana delle capanne e seguono due grandi capanne altomedievali, VI-VII secolo, scavate nel 1983 e purtroppo in gran parte inedite. Naturalmente la domanda è se con certezza scavando il santuario dell'età del rame siamo arrivati, certezza, con un elevato grado di probabilità a identificare un luogo di culto, qual era il carattere del popolamento, della presenza umana nelle altre epoche. È probabile, ma non dimostrato in assoluto, che si tratti di presenze meramente abitative e non presenze con un carattere speciale legato ad altri fenomeni e per esempio al fenomeno del culto. Che cosa ci induce a ipotizzarlo? Il nome stesso di questa località, nome attuale, Tanzgasse, il luogo, la via dei balli, connesso a quanto pare con leggende ostinatamente radicate sul sito riguardanti i balli delle streghe in questo punto. E quindi se attraverso questo impressionante arco di secoli è continuata fino quasi ai nostri giorni, a chi ha potuto raccogliere prima di noi questo toponimo, la tradizione ha qualche cosa di speciale nella leggenda, la presenza delle streghe, cioè qualche cosa di che ricordava in maniera imprecisa, in maniera fumosa, un lontano passato, e un lontano passato connesso forse non con presenze normali, capanne, case di gente che abitava lì, ma connesso con il mondo del culto, con l'effettuazione di riti religiosi. Cosa dire ancora? Per l'epoca romana ci sono delle singolari presenze, le vedrete nel libro qui raccolto diligentemente da Veronica Tauber, ci sono delle presenze tardo-romane sicuramente connesse con il mondo militare, degli elementi di divisa. Nel IV secolo d.C. soldati, fra virgolette, frequentavano questi luoghi relativamente remoti rispetto alle vie del fondovalle, eppure questi elementi di cintura tipicamente ben databili, IV secolo d.C., e ben collocabili in un ambito genericamente militare, ci sono. Alto medievale, leggermente più, ecco, questa è, vedete, adesso mi viene la figura giusta, questo è l'estremità di una cintura in forma di anfora di bronzo, e questo qui ritrovata come elemento isolato, e a fianco è stata pubblicata una cintura completa, come è stata recuperata in reperti funerari, in ritrovamenti funerari più ricchi, più fortunati. Leggermente successiva è questo esemplare di Wirbelfibel, fibula vortice o fibula a svastica, VI-VII secolo, piuttosto rara, piuttosto caratteristica, e connesso con gente che frequentava il sito, ed è stato solamente un inizio di una serie di ritrovamenti, perché a poche centinaia di metri di distanza in direzione della chiesa, l'anno scorso e l'anno precedente, sono venuti fuori resti del più grande interesse, attribuibili al primo Medioevo, all'alto Medioevo, V, VI, VII secolo dopo Cristo. Si tratta di case e si tratta di necropoli, un cimitero che ha dato fino a questo momento, mi pare, abbiamo superato le 30 deposizioni, con corredi piuttosto poveri, pettini di osso, coltelli, ma assolutamente caratteristici, e soprattutto con un patrimonio osteologico degli scheletri ben conservati, che sicuramente si presteranno a dare risposte ad una serie di quesiti sull'aspetto fisico, sull'alimentazione, sulle malattie, sulla statura, le fatiche sopportate in vita, le ferite rimarginate, le fratture saldate di una popolazione altomedievale a Veltorno nel VII secolo. Questa è una delle vie, e naturalmente le ossa in questo caso sono preziose per le datazioni radiocarboniche, perché in questo modo anche una sepoltura priva di corredo può essere ben collocata cronologicamente. Questa è una delle vie maestre che si stanno aprendo agli studi sull'Alto Medioevo, anche nelle nostre regioni. Ricordo, per l'Alto Adige, gli studi di Fabio Giovannini, recentemente pubblicati, e i bellissimi risultati nel Tirolo del Nord, raccolti in data recentissima negli scavi del professor Stadler dell'Università di Innsbruck, mi pare, nella necropoli, non vorrei sbagliare, mi pare, di Folders. Questo per dire che l'archeologia a Veltorno non è solamente il luogo di culto dell'età del rame, ma si tratta di un sito di grande interesse, di grande ricchezza. Indubbiamente questa situazione di terrazzo, di mezzo pendio, elevato rispetto al fondovalle, quindi molto ben esposto dal punto di vista climatico e nello stesso tempo relativamente protetto, cioè lontano dalle vie del fondovalle, che erano ovviamente le prime ad essere percorse nel corso delle invasioni. E queste plaghe, questi luoghi hanno raccolto attirato abitanti, popolazioni un po' in tutte le epoche. Vorrei, prima di cedere di nuovo la parola a Umberto, dire due parole ancora sulla realizzazione di questo sito musealizzato, di questa costruzione che ci auguriamo che tutti voi dopo questa serata abbiate raccolto sufficienti elementi di interesse, di curiosità per andarla a visitare di persona. Ecco, si tratta di una serie di scavi di pura emergenza. C'è qualcuno seduto qui in sala che i fatti salienti di questi scavi, sempre legati alle necessità di cantieri edili, sempre effettuati in condizioni di fretta, sempre o spesso effettuati in condizioni di scarsità di fondi. Ecco, per noi è un fatto molto importante, molto significativo che, diciamo così, sia stato possibile passare da questa fase del contingente, del momentaneo, del frettoloso, per creare qualche cosa di stabile, non soltanto nel campo degli studi a cui alludeva prima Techiati, ma anche come realizzazione di tipo, fra virgolette, museale. Ho letto da qualche parte che non è importante per realizzare determinate cose che esistano subito i soldi. L'importante è che esistano dei progetti chiari nella testa della gente. In questo caso, l'idea ben piantata in testa e che subito ha trovato rispondenza e entusiasmo nelle autorità comunali di Belturno, di realizzare qualche cosa che permettesse stabilmente sul posto di vedere che cosa si era trovato, che cosa il terreno celava, al di fuori delle pubblicazioni degli specialisti. Questa idea era ben chiara, i soldi non li avevamo. I soldi un po' alla volta li abbiamo trovati, l'appoggio fondamentale è stato l'ufficio, un altro settore dell'amministrazione provinciale, la ripartizione opere edili che è intervenuta finanziando e soprattutto con la loro grande esperienza, seguendo tutti i faticosissimi, per noi faticosissimi, passi dalla realizzazione del progetto di un architetto fino all'opera chiave in mano che abbiamo potuto inaugurare lo scorso anno. Dimenticavo di dire che un passo fondamentale è stato anche quando siamo riusciti a convincere le autorità provinciali ad espropriare questo fondo che era destinato ad una costruzione. Chi voleva costruire ha ricevuto un altro terreno di valore equivalente a qualche centinaio di metri di distanza. Questo è stato espropriato, è stato destinato appunto a questa realizzazione che dopo parecchi anni, parecchie traversie, parecchi problemi, ha potuto essere lo scorso anno inaugurato e veramente con le cose sotto gli occhi, sotto la luce del sole, tutto quello di negativo che c'era stato sul percorso si dimentica molto facilmente da parte nostra della soprintendenza e sicuramente da parte dell'amministrazione locale a cui sicuramente l'esistenza, il venire in luce in questo punto di reperti così copiosi ha comportato, ha provocato in passato qualche problema. Sì, e io vorrei aggiungere solo pochissime cose a ciò che ha detto già il dottor Darry, cioè che questa realizzazione, cioè l'Archeopark di Belturno, questa struttura musealizzata che può essere ora visitata da tutti, è parte di un percorso di siti musealizzati che in Valdisarco è già ormai abbastanza nutrito. Insomma, vorrei ricordare l'Archeopark della strada romana di Fortezza, che è forse qualcuno di voi ha già visto, che è un piccolo percorso museale lungo alcune decine di metri di un tracciato stradale di età romana, molto ben conservato, un percorso che è stato attrezzato con pannellistica, con esplicazioni, in modo che chiunque possa apprezzarne appieno il significato. E stiamo per inaugurare, adesso in maggio inaugureremo anche l'Archeopark di Villandro, Plunacker. A Villandro esiste, al di sotto della palestra comunale, esiste un grande campo di rovine di età romana, e dell'alto medioevo, del primo medioevo, che a loro volta coprono stratificazioni di età neolitica che sono tra le meglio conservate, le più interessanti, si può dire, su scala regionale, su scala alpina. E abbiamo una piccola musealizzazione a Goudon, la musealizzazione di una casa dell'età del ferro che si può vedere nella piazza del paese. Però a Goudon c'è anche un piccolo museo locale che abbiamo sempre allestito noi dell'Ufficio Beni Archeologici, in cui è possibile farsi un'idea dell'archeologia di Goudon. E un piccolo antiquarium si trova anche nella palestra tripla di Bressanone, a Roslau, e si può dire che queste iniziative locali si stanno molto ampliando, perché stanno crescendo di numero. Stiamo seguendo una esposizione permanente di reperti archeologici a Fie, e una esposizione permanente di reperti archeologici è richiesta anche a Castelrotto. Cioè si sa che le comunità locali tendono a chiedere al nostro ufficio questo supporto tecnico, cioè la possibilità di esporre localmente i reperti archeologici venuti in luce in zona. È naturalmente, cioè, quella di corrispondere positivamente alle richieste dei paesi, delle singole comunità, è un problema, perché diciamo, istintivamente diciamo, beh, è bello che si possano vedere i reperti lì dove sono stati portati in luce. D'altra parte questo apre anche tutta una serie di problemi, per esempio di opportunità scientifica, se non sia meglio conservare tutti i reperti in un unico museo piuttosto che disperderli in mille rivoli, in piccoli musetti difficili magari da trovare perché non sono sempre aperti, perché bisogna annunciarsi, prenotarsi, eccetera. E ci sono naturalmente connessi anche problemi di finanziamento, perché una vetrina per reperti archeologici che si rispetti non costa mai meno di 1000 euro, insomma, quindi una vetrina, insomma, 1000 euro si possono sempre tirare fuori quando le vetrine cominciano a diventare 40, 50, 60, ma insomma anche quelli si possono tirare fuori, però voglio dire che si pongono dei problemi di opportunità e anche dei problemi di finanziamento. E non c'è dubbio che questo sia detto veramente senza alcuna ombra di polemica, non è compito mio, non è compito nostro farlo, ma non c'è dubbio che questo compito, cioè di rappresentare l'archeologia dell'Alto Adige, era una volta parte costitutiva della mission, come si usa dire, del Museo Archeologico Provinciale, il quale però, lo vediamo anche in questi giorni, apre una grande mostra meritoria come iniziativa, una grande mostra sulle mummie, ma naturalmente mette molto in ombra la possibilità per tutti di farsi un'idea del patrimonio archeologico della provincia. Quindi ho voluto citarvi questo problema perché è uno di quelli che sono un po' sul tappeto attualmente, no? Che è un problema di politica culturale e anche di opportunità nell'uso delle risorse, nell'uso anche dei contenuti del nostro magazzino. Insomma, i reperti archeologici scavati non possono rimanere per sempre in un magazzino, devono diventare, una volta che sono stati estratti dagli estrati archeologici, i reperti devono diventare cultura. No? E affinché diventino cultura bisogna che passino per il fuoco o le forche caudine, diciamo così, di uno studio scientifico che li valorizzi, che li contestualizzi appieno, per arrivare, diciamo, diventare qualche cosa tipo questo che abbiamo voluto fare in questo libro, cioè un'occasione di cultura per tutti, anche per coloro che non fanno parte della ristretta cerchia degli addetti ai lavori, come si suol dire. E volevo concludere dicendo ancora soltanto una cosa, poi forse ci saranno delle domande da parte vostra, siamo credo tutti volentieri disponibili a rispondere alle vostre curiosità. Il volumetto è stato concepito in tre lingue, e cioè già dal titolo si vede Reich der Steine, un regno di pietre, a Stone's Kingdom, in tedesco, in italiano e in inglese. Questo corrisponde non solo all'importanza del sito, che come vi dicevo è molto conosciuto anche all'estero, cioè Belturno insieme a pochi altri siti di questo tipo nell'arco alpino è tra i siti più citati di questo genere, cioè come luoghi di culto, e mi riferisco sempre all'età del rame. Ma corrisponde anche alla consapevolezza che la nostra archeologia può essere conosciuta anche al di fuori di quelle cerchie o al di fuori di quelle nazioni in cui si legge, si capisce, si comprende bene il tedesco e l'italiano, a beneficio anche di coloro che visitano l'Alto Adige provenendo dalle più diverse regioni d'Europa. Mi hanno detto che moltissimi sono gli olandesi, per dire, in Alto Adige, pensavo si fermassero sul Garda, no? Gli olandesi invece si fermano prima anche da noi, e quindi non c'è dubbio che questa struttura plurilinguistica che noi abbiamo riprodotto anche in altri casi, per esempio adesso nel caso di Villandro, si adatti alle nuove necessità della nostra società, insomma. E io veramente non so cos'altro dire. No, ecco, forse che il libro per la gran parte è merito, non so sì, se l'hai detto, assolutamente. Della dottoressa Veronica Taubert, non è che, vero. Che è qui con noi, non è vero. Si è no. Sobbarcata la gran parte No, il merito di questo libro, c'erano tantissime persone, il comune di Belturno, poi soprattutto anche la Marisa Toropa che è l'assessore per la cultura, ma anche già prima tantissimi hanno lavorato, c'era Rizzi, ci sono tantissime persone che hanno lavorato a Belturno, per cui io ho fatto solo avevo quel compito di praticamente quello che i scienziati hanno già potuto dire, e hanno detto tantissimo, perché cioè, dentro ci sono delle cose interessantissime. Umberto non ha detto tutto, per esempio proprio la cerimonia funeraria è molto interessante, e secondo me era importantissimo farlo capire, vedere anche a tutti, perché come non esperta vado lì e vedo, tra noi posso dirlo, ci sono tantissimi sassi. Gli scienziati dicono, ma questo è proprio un reperto importantissimo, interessantissimo. Sì, è importante, però prima ci sono questi sassi e poi pian piano, leggendo, capendo, si vede che questi sassi raccontano storie, e queste storie sono di una vastità enorme, perché ci sono delle storie che noi con il nostro concetto culturale magari non abbiamo neanche pensato che esistessero. Scusate il mio italiano. Perfetto. No. E quello era il mio compito. ho cercato di farlo, quello però quello era il mio compito. Però erano 20 anni di ricerca, 20 anni di qui c'è il sindaco di Belturno, l'ex sindaco di Belturno, lui sicuramente potrebbe anche dire qualcosa. Ci sono tantissime persone che ci hanno lavorato, per cui pensiamo anche che è importante far vedere che c'è anche un prodotto. Certo. Sì, la dottoressa Tauber ha detto una cosa molto giusta, ha esteso, diciamo così, l'elenco dei crediti, no? Come si dice, è giusto. Fatalmente poi sulla copertina di un libro ci va il nome di un autore o di due autori, questo è, come vi spiegavo, questa è. Lo si vede anche dal volume, insomma, è una piccola opera, però compendia una grande fatica di studi scientifici, di scavi e così via. Dico, fatalmente in copertina ci vanno poi i nomi di una o due persone, ma è chiaro che dietro c'è un grande lavoro. Quello che la dottoressa Tauber, invece, nell'umiltà che la contraddistingue e che ce la rende cara e preziosa, dimentica di dire è che tutto questo andava sminuzzato, no? Tutto questo andava reso comprensibile perché effettivamente anche in archeologia, l'archeologia è una scienza umana, è una scienza sociale, è una scienza storica, quindi tutto sommato chiunque dovrebbe essere in grado di capirla, no? Eppure molti credono che l'archeologia sia tanto più intelligente quanto più è difficile da capire, quanto più si avvale di concetti matematici, fisici, no? Quanto più si nasconde dietro una cortina di pseudo scientificità e molto spesso le pubblicazioni scientifiche sono incomprensibili, spesso anche agli specialisti, eh? Quindi quindi una pubblicazione scientifica non è ancora non significa ancora avere trasformato in cultura la scoperta archeologica. Qualche volta significa semplicemente, scusatemi la brutalità, qualche volta significa semplicemente aver aggiunto un titolo alla carriera di uno studioso, che è una cosa ben lontana, no? Dal potersi dire cultura. Cultura è un'altra cosa, la cultura è quando un argomento difficile diventa patrimonio di tutti e tutti lo capiscono in profondità e lo vivono e lo godono nella vita che vivono, no? Questo, in parole povere, è quello che abbiamo cercato di fare a Belturno ed è ciò che noi vorremmo che voi sperimentaste visitando il sito e leggendo il nostro libro. Mi rendo conto, io sarei molto più convincente se potessi vantare presso la casa editrice Atesia dei diritti d'autore. E non li ho, ma spero di essere stato insieme ai miei colleghi sufficientemente convincente. Grazie. Ecco, forse. Qualche domanda? Qualche anticipo, siccome è ancora freddo mi sembra per andare a Belturno, forse c'è un metro e mezzo di neve, parlavi della stela, Sì. le dimensioni. E dunque, la stele è grande così, però è rotta, cioè in origine doveva essere un po' più grande, però probabilmente non tanto più grande. Ora, tra il Trentino e l'Alto Adige ci sono più di 20 di questi monumenti. Ce ne sono 8 ad Arco, ce ne sono 4 a Lagundo, ce n'è una a Laion, una a Belturno, una a Tecelinga, una a Termeno, ce n'è una a Laces, ce n'è una scomparsa a Cortes in Val Venosta e così via. Mettendole tutte una vicino all'altra si vede che normalmente hanno delle dimensioni, cioè possono avere dimensioni molto grandi, come per esempio la statua stele B di Lagundo che è alta più di 2 metri, o la statua stele di Termeno che è anche molto grande, no? Sarà anche circa 2 metri, è conservata al Ferdinandeum di Innsbruck. Dopodiché abbiamo anche delle lastre che possono essere molto piccole. Non so, la statua stele di Laces, per esempio, è quanto alta? 1 metro? 1 metro e rotti Sì, direi sì. circa, no? È rotta anche quella, attacchiamoci altri 40 centimetri, altri 50 centimetri, insomma, le dimensioni più o meno sono queste, no? Di queste, però sono un po' variabili. E quella di Belturno originariamente poteva essere lunga, non lo so, anche circa 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, non possiamo dirlo di preciso. È un piccolo, diciamo, è comunque tra le più piccole del suo genere. Per esempio la statua stele di Lyon, che si può vedere a Lyon nella sede dell'azienda di turismo, è invece una lastra possente, grande, grossa, insomma, e mi pare che sia però anche in quel caso alta 140 centimetri, ma è molto pesante perché è un blocco di pietra proprio molto grosso. E queste sono più o meno le dimensioni. La cosa interessante è che queste statue stele, questi menhir, chiamiamoli così, tendevano ad avere questo aspetto lastriforme, no? E in quasi tutti i casi le statue stele sono delle lastre, cioè sono dei parallelepipedi che possono avere spessore variabile anche a seconda dell'altezza, no? La statua stele di Laches avrà forse questa larghezza qui, la statua stele di Lyon questa, la statua stele di Belturno è una lastrina piuttosto sottile. Ma l'idea della lastra, cioè proprio della stele, questo è un aspetto condiviso quasi da tutte, insomma. Possono avere l'aspetto di vere e proprie lastre, oppure, come succede nel caso delle statue stele femminili, le cosiddette statue stele femminili, che sono chiamate così perché presentano due piccoli seni scolpiti sul davanti, hanno spesso invece una sezione di tipo quasi cilindrico. Ce n'è un esemplare a Lagundo e mi pare almeno due esemplari ad Arco, adesso non ricordo più quanti sono, mi sembra due, è che ad Arco continuano a venirne fuori, quindi abbiamo perso un po' il conto. Comunque, diciamo, su scala regionale ce ne sono almeno tre e hanno tutte più o meno questo aspetto cilindrico. Questa è la loro caratteristica e sono molto importanti perché il tipo di oggetti scolpito sulla lastra si lascia facilmente confrontare con i reperti archeologici che vengono in luce negli scavi, per cui si riesce a datarli molto bene. Cioè, supponiamo che l'artista che ha scolpito queste lastre si sia materialmente ispirato a degli oggetti che si usavano ai suoi tempi. E questo ci permette di datare la statua stele di Belturno esattamente all'età che noi chiamiamo con termine tecnico del vaso campaniforme, cioè è la fine dell'età del rame, in parole povere. Dopodiché questa datazione che era stata data prima ancora che si facessero le datazioni radiometriche sui carboni raccolti negli strati, è stata confermata dalle datazioni, cioè effettivamente questa statua stele di Belturno, che noi chiamiamo di tipo campaniforme, perché è stata scolpita evidentemente in età campaniforme, è compatibile con le datazioni degli strati archeologici, perché quel tipo di pugnale rappresentato sulla statua stele si colloca appunto nello stesso arco cronologico che noi troviamo, che noi ricaviamo dalle date radiometriche. E vi interesserà sapere che il tipo di pugnale scolpito sulla statua stele di Belturno è chiamato in termine tecnico tipo Siemposuelos. Siemposuelos è, o Siemposuelos probabilmente, la pronuncia spagnola esatta, è un sito nei dintorni di Madrid. Quindi è un tipo di pugnale che in Europa aveva nel terzo quarto del terzo millennio avanti Cristo una diffusione di tipo continentale. Ecco. Quindi questo anche per dire, anche per sottolineare l'importanza su scala europea del sito di Belturno. Signor Sindaco. Volevo chiedere soltanto se gli oggetti trovati vengono esposti da qualche parte, vengono messi alla disposizione del pubblico? Dove? Via Bolzano, oppure nel castello, oppure nel parco, nell'archeo park? E un'altra domanda, loro certamente sanno che nel Trumpir si trovano dei Schallenstein. Sì. Schallenstein naturalmente è una cosa non soltanto del Cicero, ma tutto il mondo. Sì. se si fanno anche delle ricerche su quelle Schandsteine oppure se si lasciano come sono. Volevo aggiungere soltanto una piccola osservazione che il dottor Dalry si è spiegato in questo senso, che fortunatamente tutte le difficoltà si dimenticano. Quello che rimane è il positivo. Certamente loro possono capire che le difficoltà erano enormi da tutte le parti, e naturalmente voglio esprimere soltanto, diciamo così, il rispetto in confronto alla gente della gente competente, che ci voleva una diciamo così, una Geduld, una pazienza enorme che si estendeva per anni ed anni. Però il dottor Dalry questo punto l'ha spiegato nel modo, diciamo, positivo, e ha detto che alle volte è meglio aspettare e non fare tutto alla volta, presto, e in questo senso veramente tutto si è concluso in, diciamo così, in maniera eccellente, si può dire, senza altro, eccellente. Naturalmente ci vuole, e questo lo voglio sottolineare ancora una volta, la pazienza che ci doveva essere da parte della gente competente era naturalmente importante. E da parte dell'amministrazione comunale, dai, questo è chiaro. Vuoi rispondere tu? Va bene, allora magari comincio. Io ho vissuto in modo veramente, ho vissuto solo la parte terminale, diciamo così, di questo progetto, quando ormai le cose, tutto sommato, sia pure ancora tra le difficoltà, stavano per risolversi positivamente. Ma conosco, per i racconti che me ne ha fatti il mio capo, conosco le difficoltà che ci sono state in passato, ed è naturalmente diciamo, sentire dalla persona che a bel turno aveva la maggiore responsabilità in quel momento, no? Nella maggior parte del periodo, perché in fondo lei ha smesso di fare il sindaco pochissimo tempo fa, no? Ha retto le redini del suo comune molto, molto a lungo, insomma. E sentire da lei queste parole di rispetto credo che sia particolarmente importante per noi, insomma. E contemporaneamente, ha ragione anche il mio capo, siamo totalmente consapevoli della serie di grattacapi che vi abbiamo dato, però diciamo alla fine noi diciamo sempre, non è tanto importante vincere tutte le battaglie, no? L'importante alla fine è vincere la guerra insieme, insomma. In questo caso si può dire che è andata così, insomma. Io, detto questo, vorrei rispondere alle sue domande partendo dall'ultima. Allora, i Schandsteine che citava il signor sindaco sono rocce a coppelle che praticamente sono dei buchini scavati nella roccia. In questa roccia del Trumpil, che è un bellissimo colle che si trova alla periferia di valle, in direzione est di Belturno, in vista della valle dell'Isarco, lì c'è una roccia dove le coppelle sono, mi pare, 750, quindi un numero enorme. Dimenticavo di dire che il allegato al libro si trova anche una carta per passeggiate commentata, per cui diciamo a Belturno non c'è solo da vedere il luogo di culto della Tanzgas, ma in realtà Belturno è un serbatoio di bellezze archeologiche, paesaggistiche e così via, di grandissima importanza, che noi abbiamo voluto riassumere in questa carta, ancora una volta curata con grande pazienza e con grande sensibilità da Veronica Tauber. E le coppelle del Trumpil sono tantissime, sono, mi pare, 750, sono un numero enorme, e fanno di questa roccia una uno dei più spettacolari monumenti del genere che si trovino in Alto Adige. Ora, noi non abbiamo alcuna garanzia che queste coppelle siano preistoriche o protostoriche, ma è un dato di fatto che il popolamento di Belturno è molto antico e che il Trumpil stesso è sede di un abitato fortificato dell'età del ferro, per cui come minimo la possibilità che le coppelle siano dell'età del ferro esiste. E recentemente è stato pubblicato un volume sulle coppelle nella conca di Bressanone, in cui si parla anche di questa importante roccia. Nella conca di Bressanone ce ne sono dappertutto, anche altrove in Alto Adige, ma la conca di Bressanone è stata studiata molto a fondo, con ricognizioni, con un lavoro di documentazione enorme fatto da Gianni Rizzi di Bressanone e dalla sua equipe. Per cui si può dire che dal punto di vista dello studio quella roccia sia sufficientemente conosciuta. Quello che si può fare, che finora non è stato fatto, è mettersi d'accordo con i proprietari e magari mettere un cartello dove si spiega che cos'è questa cosa, insomma. Forse in questo modo riusciremo anche a garantirne di più la conservazione, perché spesso si trovano sulla superficie, si trovano tracce per esempio di fuochi accesi. Naturalmente accendere i fuochi sulle coppelle non fa bene alla loro conservazione, no? Quindi io raccolgo volentieri la domanda che mi ha fatto: che cosa intendete fare con queste coppelle? Ciò che dovremmo fare è intanto tutelarle, no? Cioè garantire che queste coppelle abbiano una vita per quanto possibile lunga, che non vadano distrutte, almeno non sotto i nostri occhi, insomma. E la seconda cosa, fare in modo che la gente le conosca, le apprezzi e le protegga in prima persona. Questo sarà da fare, insomma, ed è un impegno da parte nostra. Per quanto riguarda invece i reperti che provengono dalla Tanzgasse o da altri siti archeologici del comune di Belturno, recentemente abbiamo avuto una riunione a Belturno con il soprintendente, con il nuovo soprintendente, il dottor Andergassen, e il nuovo sindaco di Belturno. Ci siamo messi d'accordo sul fatto che una sala che si trova a piano terra una sala che attualmente è solo una rimessa, una specie di garage che si trova a piano terra del Castel Felturns, venga trasformata in una sede espositiva, cioè in una mostra permanente e sull'archeologia di Belturno, con possibili estensioni sull'archeologia della Val d'Isarco, mentre una serie di copie, per esempio le copie dei reperti che normalmente sono esposti al museo archeologico, su proposta del dottor Dallarì, potrebbero essere esposti in una vetrina nell'archeoparco. Ecco, quindi prevediamo di arrivare, diciamo, come minimo con la vetrina nell'archeoparco abbastanza rapidamente. Con l'esposizione permanente all'interno del castello, lì ci sono tempi tecnici che non dipendono da noi, perché la sala va adeguata, bisogna rifare la pavimentazione, bisogna predisporre l'illuminazione, eccetera. Lì la cosa sarà un pochino più lunga, però mi pare che ci sia la volontà di tutti di creare un polo di esposizione di reperti archeologici a Belturno. Soltanto una piccola domanda. Anche nel primo piano ci sarebbero una sala almeno, non è stata presa in considerazione? Inizialmente sì. Lei allude forse a quella sala dove c'è la stufa di maiolica? Sì, sinistra. Infatti, quello inizialmente era nel progetto, sì. E cioè si era pensato a quella sala lì, ma l'ultima volta che abbiamo avuto l'incontro su questo tema non è stata nemmeno presa in considerazione. È stato invece deciso di liberare questa grande sala che c'è a piano terra e di trasformarla in sala di esposizione, insomma. Come si dice, ubi maior minor cessat. C'era un'altra domanda. Ah, sì. Sì, io volevo chiederti un po' prima la luce di questi ritrovamenti che sono stati fatti per tornare alle statue stele. Sì. Si sa che cosa raffigurino? Si sa che perché sono state, cioè saranno delle ipotesi, penso, sì. So che ce n'è diverse, cioè sì. Alla luce di questi ritrovamenti c'è qualche qualche chiarimento sulla su perché sono state forse sono state praticamente collocate in questi contesti, sì. Posti che vediamo che sono molto disparati, cioè non c'è che una continuità, sì. Ce n'è nel Meranese per esempio, ce n'è, sì, più che in Valisacqua al momento, sì. Che sono sì, dunque, la domanda è giustissima, cioè ci siamo chiesti tutti mille volte che cosa rappresentassero, che cosa servissero, no? Le due domande sono queste, perché una volta che sappiamo ipoteticamente sappiamo chi rappresentassero, non per questo sappiamo a che cosa servissero, no? Le due domande sono queste. Almeno la cronologia l'abbiamo stabilita, non è stato sempre così. La cronologia delle statue stele è nota soltanto da una trentina d'anni, forse in precedenza le statue stele avevano datazioni un po' disparate, insomma appartiene alla storia dell'archeologia più moderna la precisa datazione delle statue stele. Quindi su quello almeno non dovrebbero esserci equivoci. Indubbiamente queste statue stele hanno spesso un aspetto antropomorfo, quindi rappresentano delle persone. In alcuni casi i tratti somatici sono più evidenti, per esempio nel caso delle statue stele cosiddette femminili, la presenza dei seni indica al di fuori di ogni ragionevole dubbio che lì è stata rappresentata una persona di sesso femminile. Il sesso maschile invece non è mai evidenziato se non attraverso la presenza delle armi, no? Si dà per scontato che le armi le usassero soprattutto gli uomini, e in questo caso direi che l'interpretazione di genere è giusta, perché le statue stele femminili non hanno armi, le altre statue stele hanno le armi, quindi si presuppone che siano maschi. Le statue stele però in almeno due casi, e cioè nella statua stele di Revaux in Val di Non e in una delle statue stele di Arco, compaiono delle piccole statue stele in cui c'è la sola indicazione dei tratti del volto, cioè l'indicazione del toro sopraorbitario e l'indicazione del naso. E queste statue stele non recano né tratti che permettano, che agevolino l'interpretazione di genere, né armi, il che significa che probabilmente sono infanti o assessuati, cioè diciamo sono statue stele assessuate e quindi probabilmente infanti. Detto questo, non abbiamo ancora detto molto, no? Perché il problema vero è capire se questi personaggi sono, come alcuni autori ritengono, componenti di un pantheon, cioè di un insieme di divinità diversificato in base all'età e al sesso, o se questi siano la rappresentazione di defunti, no? Ora, il primo caso non è verificabile, il secondo caso nemmeno, perché in realtà le statue stele sono molto standardizzate, o perlomeno a livello regionale sono molto standardizzate. Non c'è una volontà di rappresentare quel defunto, ma una volontà di rappresentare genericamente il defunto, no? E per cui noi abbiamo statue stele iconograficamente, stilisticamente molto omogenee, per esempio nell'arco alpino occidentale, nel gruppo della Lunigiana, nel gruppo di Aosta e di Sion nel Vallese, abbiamo un insieme abbastanza omogeneo tra Valcamonica, Valtellina e area atesina, relativamente omogeneo. Giustamente gli studiosi distinguono tra il gruppo atesino, che comprende anche la Val di Sarco, e il gruppo della Valcamonica e della Valtellina. Dopodiché ci sono altri nuclei in altre regioni d'Europa e d'Italia, e però diciamo queste statue stelle non rappresentano mai, a quanto pare, il defunto sepolto lì. ma sono comunque rappresentazioni che potrebbero avere a che fare con il culto dei morti. Questo si può dire perché in fondo le statue stele trovate in contesti archeologici chiusi, cioè in contesti archeologici ricostruibili, sono pochissime. Nel gruppo atesino l'unica è quella di Belturno. Si stanno facendo ora delle ricerche in Lombardia, in vari siti della Lombardia, in Valcamonica in particolare, e si vede che le statue stele sono spesso contenute in contesti in cui si trovano anche ossa umane bruciate, un po' come succede da noi. Per cui il riferimento al defunto sembra accertato, almeno in alcuni casi. Forse, se è accertato in alcuni casi, è accertato in tutti. Questo non si può dire, perché comunque la maggior parte delle statue stele non è stata trovata in contesti archeologici. Cioè, la maggior parte delle statue stele provengono da contesti archeologici distrutti, che originariamente esistevano, ma oggi non esistono più. Quindi non possiamo dirlo. A Belturno il contesto c'è, ed è un contesto chiaramente di tipo funebre, di tipo funerario. Potrebbe essere una chiave di lettura. La mia personale chiave di lettura è questa, che le statue stele siano la rappresentazione molto simbolica, molto stilizzata, e per questo ricorrente in grandi areali geografici. Guardate che le statue stelle le troviamo fino al Mar Nero, quasi con le stesse caratteristiche, sono statue stelle la cui iconografia, statue stelle del Mar Nero, la cui iconografia è identica a quelle di Lagundo o della Valcamonica, per cui evidentemente c'è un movimento di idee, perché non possiamo pensare che queste cose nascano indipendentemente le une dalle altre, così identiche, no? Non possono essere convergenze casuali, sono fenomeni che hanno alla loro base contatti di genti di portata storica eccezionale che noi riusciamo appena ad immaginare, no? E io credo che queste statue stelle siano la rappresentazione di antenati, sostanzialmente, ai quali si attribuisce il merito, diciamo così, di avere fondato il territorio in cui quella comunità vive. Cioè, queste statue stele sono, secondo me, ma questa è l'opinione mia che mi sono fatto io, che ho anche pubblicato, ma che non è la verità, è la mia verità, sono antenati che hanno appunto il compito di, a cui si attribuisce il compito, la funzione di avere fondato dei sistemi insediativi, in parole povere. Cioè la comunità che risiede in quel luogo stabilisce con le statue stele il suo diritto ereditario, diciamo così, a risiedere in quel luogo. Ed è per questo che questi, secondo me, che questi santuari hanno questo aspetto monumentale. Sono un marker territoriale che serve a indicare il diritto ancestrale di possesso del terreno, del possesso del territorio. E questo è anche il motivo per cui compaiono sempre tutte queste armi, no? Evidentemente in questa rappresentazione mitica il possesso del territorio è avvenuto a seguito di guerre, a seguito di scontri, eccetera. Guerre e scontri che probabilmente non ci sono stati, ma comunque sono queste statue stelle sono la patente di diritto al possesso del territorio. Le armi potrebbero anche raffigurare la difesa del territorio. Naturalmente, in questo senso, insomma, la difesa e il diritto, come dico, il diritto ancestrale a risiedere in questi luoghi. Cioè, in parole povere, rappresenterebbero il fondatore, l'ecista. No? La figura mitica che c'è spesso alla base di molte culture preistoriche o di molte culture primitive attuali o di popoli di natura attuali, diciamo, no? Il personaggio nel quale ci si riconosce, insomma. È interessante osservare che, ecco, forse l'ultima cosa che dico, sarete anche stanchi di sentirci chiacchierare, ma il rito funebre che si svolgeva a Belturno comportava la combustione di cadaveri sepolti e riesumati. Cioè il cadavere veniva dapprima sepolto, dopodiché le sue ossa venivano riesumate e bruciate, e una piccola scelta di queste ossa bruciate venivano deposte all'interno di questi tumuli di pietrame. E questa, fino a poco tempo fa, era un'ipotesi del dottor Dalry e mia, ma ora sta per essere confermata, ci sono tutti gli indizi in questa direzione, da uno studio che sto dirigendo, da un progetto di studio che sto dirigendo io, di studio delle ossa umane trovate nel sito. Finora avevamo i dati solamente del tumulo, i dati antropologici, cioè i dati sulle ossa umane bruciate, soltanto del tumulo A, cioè il primo tumulo scavato dal dottor Dalry ancora negli anni 80. Ma andando avanti con le ricerche, ossa umane sono venute fuori anche negli altri tumuli, nelle altre strutture dell'installazione cerimoniale. Tutto lascia pensare che queste ossa siano state bruciate quando erano già secche, quando erano già disidratate. Cioè non si tratta delle ossa bruciate di un morto fresco, mi passate l'espressione, ma me l'avete suggerita, quindi sono autorizzato. Non sono le ossa bruciate di un morto fresco, ma sono le ossa bruciate di un morto le cui ossa hanno avuto il tempo di disidratarsi. Le tracce lasciate dalla combustione, nei due casi, sono molto diverse, per cui si può dire sempre con certezza se l'osso era idratato, cioè se l'osso era fresco, in parole povere, o se l'osso era disidratato. Le ossa umane di Belturno erano disidratate. Quindi, questo per dire, ma insomma, avevano un cerimoniale funebre molto articolato, probabilmente quello che cogliamo noi è una parte piccolissima, e nel libro c'è una ricostruzione che abbiamo voluto fare della cerimonia, che vedete qui, una ricostruzione pittorica della cerimonia, che comprendeva il seppellimento del defunto in una fossa, una di queste fosse l'abbiamo trovata, e dopodiché il defunto si scarnificava all'interno della fossa, tempo dopo, forse anni dopo, veniva riesumato e bruciato su una pira, cioè su una catasta di legname, insieme ai suoi oggetti di corredo. E dopodiché una scelta dei suoi oggetti di corredo e delle sue ossa venivano sepolti all'interno dell'area cerimoniale, all'interno del tumulo, e venivano buttate sopra delle pietre. Nel tumulo A erano sepolti, questo lo sappiamo dalle indagini antropologiche, erano sepolti quattro individui, di cui un individuo adulto di sesso maschile, un individuo di sesso ed età non determinabili, un individuo femminile adulto e un individuo femminile giovane. Il che significa che questa tomba non è stata concepita solo per diciamo il maschio alfa, no? Cioè per il maschio importante del gruppo umano, ma probabilmente per il maschio e per la sua famiglia, possibilmente, no? O comunque destinati ad una... Com'è? O la femmina. O la scusa, o la femmina col suo... Non sappiamo, no? Ha funzionato. Può anche essere, può anche essere. Ecco, quindi questo tanto per dire che ciò che è importante sottolineare per rispondere definitivamente alla tua domanda è che la complessità del rituale funebre è il risvolto di una complessità ideologica importante nel gruppo umano. L'idea che mi sono fatto io è che questo fosse un gruppo, il gruppo chiamato, il gruppo autorizzato ad essere trattato in questo modo e seppellito in quest'area, doveva essere un gruppo, probabilmente il livello superiore della società del tempo, che si autorappresentava in questa struttura funeraria. E perché si autorappresentava? Si autorappresentava probabilmente proprio per questo, cioè in un momento in cui si formavano i territori di pertinenza degli abitati, perché questa è l'età storicamente in cui il fenomeno avviene, e le elite di recente formazione occupano dei territori su cui stabiliscono un possesso di tipo ancestrale. E questo è il significato, secondo me, delle statue stele e il significato di questi santuari. In questo modo io tendo a dare a questi santuari e a queste statue stele, a queste manifestazioni in generale, un valore squisitamente laico, no? Infatti, o perlomeno a porre l'accento sull'aspetto laico e profano della faccenda. Mi è stato diciamo così, contestato che non si può, in un'epoca così antica, lo sappiamo da mille esempi, non possiamo distinguere nettamente tra la componente profana e la componente religiosa, ma infatti non era quello che volevo fare io, cioè io ho voluto semplicemente richiamare l'attenzione sul fatto che questi contesti archeologici possono avere un significato religioso, ma una funzione politica. Ecco, questo è il senso ultimo delle mie osservazioni. Però capite da soli che sono speculazioni che non hanno una vera speranza di essere provate. No? Grazie. Una curiosità rispetto all'etimologia del nome del turno, c'è qualcosa che si riesce a rintracciare nelle sue origini etimologiche rispetto a tutte queste attività culturali, oppure rispetto anche, non so, all'attività, questo forse lo sa, fusione del rame eccetera, devo scappare. Arrivederci. Arrivederci, grazie, buonasera. Ma io non ne so abbastanza, devo dire che senza volere hai toccato un tema molto delicato, no, senza volere, forse volendo. No, era una curiosità, sì. L'importanza del no. Cioè, dal punto di vista della cultura, sì. dei morti, sia dal punto di vista anche delle tracce di rame che avete trovato. Sì. Dicevo, hai toccato un tema molto importante, che è il rapporto esistente tra archeologia e linguistica, e tra archeologia e toponomastica. Io ricordo di avere sentito dire da qualcuno, credo dal vecchio studioso di toponomastica della ripartizione, vecchio, giovane, ma vecchio nel senso che c'era, adesso non c'è più, che è il dottor Coleman, ricordo di aver sentito dire che Belturno è uno di quei toponimi probabilmente prelatini, e cioè prelatini nel senso di rettici. No? Ricordo, il che è assolutamente possibile, perché l'età del ferro a Belturno è molto ben documentata, quindi è assolutamente possibile. Dopodiché, se Felturns nell'età del rame si chiamasse già così, francamente non saprei dire, mi pare poco probabile. È probabile che il nome, se veramente il nome è di età, il nome dal punto di vista linguistico è retico, come taluni dicono, è probabile che il nome si sia imposto a partire dal bronzo finale. Il bronzo finale è l'epoca a partire dalla quale si fa, diciamo, si può seguire lo sviluppo culturale della cultura retica, cioè si intende che il bronzo finale sia, diciamo, alla lontana l'inizio in qualche modo della cultura retica, quindi forse lo possiamo tirare indietro fino al bronzo finale. Il bronzo finale a Belturno è anche molto documentato, però non abbiamo, mi pare, più indietro di così è impossibile. Voglio dire che se ammettiamo che il toponimo sia retico, è possibile che questo si sia formato nel bronzo finale, perché culturalmente diciamo la parabola della cultura retica incomincia ad essere seguito, questo secondo molti studiosi, a partire dal bronzo finale. Quindi diciamo che tra il XII e il X secolo avanti Cristo forse questo nome esisteva già. Non abbiamo alcuno strumento per determinarlo, ma è sicuramente un tema di grande interesse. E visto che siamo in una biblioteca, volevo a questo proposito suggerirvi la lettura di Archeologia e Linguaggio, che è un bel libro pubblicato da Colin Renfrew, mi pare all'inizio degli anni 90, per la casa editrice La Terza, che è quel libro è dedicato molto alla soluzione del problema indoeuropeo, ma comunque tratta molto argomenti di questo tipo, insomma. Mi pare che si ipotizzi nel libro che Ezi venisse da quelle parti, cioè cosa c'è di fondato? Dunque sono... fai tu, Veronica. No, in questo libretto abbiamo messo proprio quella parte della Dolomiten, perché nella Dolomiten c'era scritto che Ezi fosse Velturnese, no? però in fondo non si sa, e il luogo di culto non è della stessa età proprio del secolo, per cui abbiamo preso questo come Rezeptionsgeschichte, come si può dire, come storia della, diretto, della fortuna del sito, della tradizione della del sito, che sì. Sì, e diciamo, tutto nasce da questo, cioè uno studioso austriaco, ma attivo come ricercatore, mi pare in Australia ancora, no? Sì. Si chiama Müller, ha studiato gli isotopi dello smalto dei denti di Ötzi, confrontando con gli isotopi presenti nei sedimenti, nella terra, di vari siti dell'età del rame dell'Alto Adige. Ora, che cosa succede? Che, come sapete, questi isotopi si fissano nello smalto dei denti nei primi anni di vita attraverso l'acqua che si beve, il cibo che si mangia e così via. E quindi questi isotopi tendono a rappresentare, dal punto di vista geografico, la zona di origine di una persona. Se noi fin dalla nascita mangiamo e beviamo a Bolzano, la composizione chimica dello smalto dei nostri denti non sarà tanto difficile, tanto diversa rispetto alla composizione chimica del terreno o dell'acqua da cui dipende la nostra alimentazione. Se non che, cosa succede? Che Ötzi è stato trovato in Alta Valsenales, di fatto non sappiamo da dove venisse, cioè non sappiamo quale fosse il suo villaggio di origine, dove si è vissuto per la maggior parte della sua vita e così via, sappiamo solo che l'abbiamo trovato lì. E chiaramente sapere da dove viene sembrava importante in generale da un punto di vista archeologico. E si è cercato di risolvere il problema confrontando gli isotopi presenti nello smalto dei suoi denti con il terreno proveniente da siti archeologici grosso modo coevi. Se non che la maggior parte di questi siti archeologici dell'età del rame si trova in Val di Sarco, no? Per cui voglio dire, non ha avuto la possibilità di studiare il terreno archeologico di altri siti dell'Alto Adige, per cui, no, Lorenzo, mi pare che sia questo il punto, per cui alla fine era chiaro che dovesse assomigliare a qualche cosa di quello che aveva in mano. Io francamente non credo troppo che fosse di Belturno, insomma, è una banalizzazione giornalistica, serviva dare una risposta ad una domanda e si è trovata una risposta qualsiasi, ecco, questo è il punto. Io sono personalmente molto critico rispetto a questo tipo di indagini, no? E molto diverso sarebbe stato se avesse potuto confrontare i dati presenti nello smalto dei denti di Ötzi con i dati dei terreni provenienti da tutto lo scacchiere provinciale, per dire, no? E soprattutto con riferimento all'epoca in cui visse Ötzi, perché il luogo di culto dell'età del rame di Belturno si data intorno a 2500, Ötzi invece si data intorno a 3300, e ci sono quasi 1000 anni di differenza tra uno e l'altro. Per cui, cioè, mettere in relazione Ötzi con l'età del rame di Belturno veramente non ha senso. E allo stesso modo dire che viene da Belturno anche non ha senso, perché a Belturno non abbiamo resti archeologici così antichi come la mummia. Per cui dal punto di vista archeologico il collegamento allo stato attuale è inesistente, insomma, direi. Però l'hanno scritto, e c'è anche in qualche sito dell'internet c'è ancora scritto che fosse di Belturno, per cui abbiamo pensato di mettere questo argomento anche in quel, sì, per chiarire, sì, questo. La, sì, notizia in ogni caso segnala diciamo l'interesse che segnala di più l'interesse suscitato sempre da Ötzi in ogni momento, in ogni occasione, piuttosto che l'interesse suscitato da Belturno, perché è chiaro che, diciamo, io credo che sia a tutti chiaro l'interesse archeologico di Belturno dopo la serata di stasera, insomma, l'idea che quella è una cosa bella, importante, credo che sia nella testa di tutti, ma certo Belturno non ha alcuna speranza di avere la visibilità giornalistica che ha che ha avuto e che ha sempre la mummia, insomma. Per cui questo, se vogliamo, la presenza di questa pagina di giornale nella nostra brochure serve anche a sottolineare questo, cioè come in fondo diciamo siano diverse le strade della comunicazione giornalistica rispetto alle strade della divulgazione scientifica, insomma, ecco, questo se vogliamo, abbastanza lontano, molto lontano, per fortuna. Bene, allora io ringrazio tantissimo per questa serata che è stata proprio veramente interessante e auguro a tutti buon proseguimento di serata. Grazie mille. Grazie.